keep on coming back. You can feel my patience is over. You can see me in the dark because my back. Patience is over. You can see me in the dark because my bad luck comes for me. Tra nesci bagasce ed un nessun tutti misci a fin d'un mese. Nessun senza pretese, ma sei tu su lubo ugie. Agente a se sera fitu, come jo ugie. Scie di luce, macchine sprecciano tipo sculettano vita che induce. Spesso nel dubbio che stai in una gabbia di matto di babbi dalle teste fuse. Le pana cruce, non cercare scuse, sentiamo e vuge, ecco le accuse. Sono innocente colpevole solo di aprire corrine, le menti chiuse. Massimo X Fry, capo sconvolto. Ghiaccio il volto al tuo capo e vivo nella città del capo volto. La situa mi puzza come uno stocca fisso. Ma non dovrà far serata con noi, non regge sbocca fisso. Io sono lo stregone sciamano, in guerra le mie rime sono bombe a mano. Quando le senti rimani scioccato e ti blocchi come bresciano. Schiaccia play, non trovi belle storie. Ho così tanti drammi in testa che se sbuccio una cipolla piange lei. Take me to the street and coming back. You can feel my patience is over. You can see me the dark because my bad luck comes for me. D'alcol. Faccio il passo di Mike, spacco tutto quanto, faccio fuoco come il Blanco. Tu sei Carlito, zio forse non l'hai capito. Sei finito come la birra che ho digerito. Ti scarto come Luis Figo, olè. Giro un cannone che sembra un lampione. Attaccati a sto maniglione, non fare il campione. Cambia personaggio, per te è meglio fare il buffone. Simo chiama Frankie, cerco l'ash. Ecco Frankie Ash, c'ho 10 cartine, facciamo un collage. Bella fra, dai giro veloce perché il maresciallo è sempre in allerta. Tiro giù il finestrino ma non riesco a bozzare la sbanfa d'erba. Ci bossiamo in culo e lupi. Salite in macchina, se avete da fumare siete i benvenuti. Benvenuti! Questa è la bolza del rap. Ti buca il petto come Cantona. Multi.